Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, ultima puntata della settimana e meno male qualcuno di voi dirà, magari qualcuno invece sentirà un po' la nostra mancanza nel fine settimana, ma torniamo lunedì per l'ultima settimana di diretta del nostro contenitore dedicato all'economia familiare e alla finanza familiare. Sulle borse mondiali da una decina di giorni sembra essere tornato il sereno e però abbiamo alle spalle mesi terribili, un quadro economico ancora piuttosto incerto, eppure anche nella furia della crisi finanziaria internazionale degli ultimi due anni, gli ETF hanno continuato a correre. Piccoli risparmiatori ed investitori istituzionali continuano a puntare in misura crescente su questi prodotti di investimento. Nel 2008 erano oltre, su scala internazionale mondiale, 3.600, a fine 2007 pensate che erano poco più di 1.800, per cui sono letteralmente raddoppiati. A Piazza Affari, secondo gli ultimi dati, sono quotati 371 fra ETF ed ETC, poi vi spiegheremo la differenza. L'ETC è il prodotto simile all'ETF che investe sulle materie prime, sulle commodities, sono distinti in 6 macro categorie. Il segreto della loro grande diffusione, dicono coloro che sono particolarmente affezionati a questo prodotto di investimento, trasparenza e basse commissioni. È un fenomeno da continuare a monitorare attentamente proprio alla luce di questa grande crescita, di questo grande favore da parte dei risparmiatori, in particolare anche alla luce del fatto che siamo nel pieno della stagione di un tracollo senza fine della raccolta dei fondi comuni di investimento. E siccome gli ETF sono simili ai fondi comuni di investimento, ma hanno anche qualche differenza perché possono essere negoziati in borsa come delle semplici azioni, allora oggi torneremo ad esplorare questo mondo, come sta cambiando, perché è un mercato in piena evoluzione, e soprattutto cercheremo di capire perché vi piace tanto. Allora intanto ci serve sicuramente la vostra testimonianza all'800240024 e ci potete anche scrivere al 349-238-6666 a commentare con noi queste tendenze, i protagonisti di questo mercato. Emanuele Bellingeri, responsabile per il mercato italiano di iShares, gruppo Barclays. Bellingeri, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E un bentornato invece a Mauro Giangrande, responsabile della piattaforma ETF di Deutsche Bank per l'Italia, di BX Markets, poi spiegheremo esattamente la vostra piattaforma che cosa fa. Bentornato. Grazie. 800240024, ve lo ricordo ancora, il numero verde qualora vi fosse sfuggito qualche secondo fa, e 349-238-6666 il numero per i messaggi. La borsa, qualche anticipazione l'abbiamo data anche nel GR, borsa ancora piuttosto tonica questa mattina, un mercato che proprio da qualche tempo a questa parte preferisce guardare alle buone notizie piuttosto che a quelle cattive. La buona notizia di stamattina è stata l'IFO tedesco, l'indice di fiducia che arriva dalla Germania, che è risultato nettamente superiore alle attese, e il mercato, dopo aver aperto in maniera debole, ha cambiato immediatamente direzione. Londra adesso sta guadagnando lo 0,70%, Parigi lo 0,66%, Francoforte lo 0,64%, Milano più 0,57% sul FTSE MIB. E dire che ci sono state delle trimestrali che non hanno particolarmente confortato gli operatori, come quella di Microsoft di ieri sera: utili in calo, vendite in calo, titolo nella sessione after hours del mercato americano in calo dell'8%. Oggi vedremo come andrà nell'apertura appunto delle contrattazioni a Wall Street del pomeriggio, ma di fatto, mentre dalla tecnologia negli ultimi giorni erano arrivate delle indicazioni positive, per esempio con i risultati di Apple, Microsoft ha dato un'indicazione contraria, ma il mercato non ha guardato assolutamente a questi risultati. Oggi ci sono in Europa i risultati invece di Ericsson, di Vodafone, e forse anche questi sono guardati positivamente dagli operatori. Un'occhiata a Milano: oggi scatta il settore bancario, quello editoriale, CIR, miglior titolo della seduta, più 3,59, segue Intesa San Paolo, più 1,50, Unicredit, più 1,39, Tenaris, più 1,36, Mondadori, più 1,20, Enel, più 1,03, Atlantia, più 0,9%. E chiudiamo la lista della spesa con i titoli invece che stanno perdendo di più: sono Luxottica in ribasso di un punto, Terna meno 0,8, Saipem meno 0,6, Campari meno 0,5, meno 0,5 anche per Bulgari, Ansaldo, Fondiaria ed Impregilo. Rapporto euro-dollaro a 1,42,35. petrolio a $67 al barile, infatti la benzina si è adeguata immediatamente, tanto noi vediamo subito lì quello che succede sul fronte del petrolio, se anche non ci interessiamo delle quotazioni del greggio, basta andare a fare il pieno e scopriamo immediatamente qual è la tendenza. Lasciamo il mercato però, andiamo ad un altro mercato, a quello degli ETF che sia in Italia ma su scala internazionale sta continuando a crescere. Hanno schivato gli effetti più dirompenti della crisi finanziaria e attirato l'attenzione, ma soprattutto i capitali, di grandi e piccoli investitori in fuga dalle borse e dal risparmio gestito. Si tratta degli ETF, una particolare categoria di fondi negoziati in borsa come semplici azioni, che replicano la composizione di un indice di mercato, settoriale, azionario o obbligazionario, e di conseguenza anche il suo rendimento. Strumenti che proprio nell'anno nero dei mercati sono stati in grado di mettere a segno rendimenti che in alcuni casi hanno raggiunto addirittura il 70%. Il settore dunque sembra non conoscere crisi. Secondo la Federazione Mondiale delle Borse, al 31 dicembre scorso i contratti scambiati sono quasi quintuplicati su base annua e gli asset investiti sono saliti a quasi 1.000 miliardi di dollari. Lo stesso numero di ETF nel mondo è raddoppiato, passando dai circa 1.850 prodotti presenti sul mercato a fine 2007 agli oltre 3.600 a fine 2008, per un controvalore di 1.400 miliardi di dollari. Ma quali sono, rendimenti a parte, le ragioni di questo successo? Tra i punti di forza degli ETF rientra la flessibilità, la facilità di compravendita, la trasparenza e commissioni di gestione molto basse, comprese tra lo 0,1 e lo 0,4%, contro lo 0,5 e il 3% circa, che grava invece sul patrimonio dei fondi comuni. Un altro fattore da non sottovalutare è che gli ETF hanno il pregio di non essere esposti al rischio emittente, elemento quest'ultimo quanto mai apprezzato alla luce dei recenti crack finanziari. 800 24 0024 è il numero verde che vi permette di prenotare i vostri interventi, interagire con noi sul tema di questa mattina, un tema legato ai nostri investimenti, l'ETF, quindi questi prodotti di risparmio e di investimento che hanno avuto una larghissima diffusione nel nostro paese ma anche su scala internazionale, perché insomma gli risparmiatori hanno scoperto tutti i vantaggi dell'investimento di questo tipo, che è un investimento con commissioni basse, per cui si ritiene anche che sia molto molto trasparente. Allora noi cercheremo di capirne qualcosa di più. Abbiamo fatto tante trasmissioni in passato dedicate a questi prodotti, poi li abbiamo abbandonati un po', ma visto che la crescita continua, allora dobbiamo per forza andare dietro al mercato degli exchange traded fund. Questa è, come dire, la denominazione inglese. Emanuele Bellingeri, mercato italiano di iShares, gruppo Barclays, e voi siete i più grandi emittenti mondiali di ETF. Ma quanti ne avete in casa vostra? Sì, noi abbiamo oltre 380 ETF quotati sulle diverse borse mondiali, con una quota di mercato pari a oltre il 48%, quindi diciamo che su 100 lire investite in ETF nel mondo, 50 sono su fondi iShares. Anche in Europa siamo leader di mercato con il 39% e in Italia di nuovo siamo uno dei tre principali leader sulle borse italiane. L'altra società che ha una bella fetta di mercato in Italia è l'Ixor, che nel 2009 si è confermato primo emittente di ETF su borsa italiana per numero di contratti e per controvalore per patrimonio. Poi c'è un altro grande operatore, Deutsche Bank X Markets. Mauro Giangrande, responsabile della piattaforma ETF di Deutsche Bank per l'Italia. Voi invece che primati ci avete portato questa mattina? Noi abbiamo il primato della crescita. Siamo arrivati sul mercato abbastanza di recente, perché il primo ETF l'abbiamo quotato nel 2007, quindi poco più di 2 anni e mezzo fa. Da quel momento in poi però l'impegno di Deutsche Bank nei confronti di questo mercato è stato molto, molto grande. Siamo arrivati ormai a più di 100 ETF quotati nel mondo. Come patrimonio gestito abbiamo raccolto circa 20 miliardi di euro, quindi in così breve tempo è stato veramente un grande risultato. Soprattutto fra i piccoli risparmiatori, perché ovviamente quando questi prodotti di investimento sono partiti, sono subito stati accalappiati dal piccolo risparmiatore. L'investitore istituzionale ci si è avvicinato un po' più tardi. Diciamo che l'ETF nasce nei primi anni 90, ormai negli Stati Uniti, con l'obiettivo di soddisfare innanzitutto quelle che erano le esigenze dell'investitore istituzionale. diciamo che l'investitore retail beneficia del fatto mm-hmm. che il prodotto è quotato in borsa e di conseguenza è disponibile a tutti, come si è detto, quindi a bassi costi, un prodotto molto efficiente, e questo è il motivo per cui negli ultimi tempi si è assistito, diciamo, alla nascita di ETF un po' più complessi, sì. che magari per l'investitore retail non sono di così facile e immediata percezione, perché, come dicevo prima, l'esigenza per chi fa un ETF è quella di coprire anche le esigenze di un investitore istituzionale. Prima microfoni spenti, quando Mauro Giangrande conosce già molto bene la nostra trasmissione, Emanuele Bellingeri invece è la prima volta che partecipa, e Emanuele mi chiedeva, ma insomma, che tipo di domande arrivano a Radio 24 quando trattate argomenti di questo tipo? Ci arriva anche questa, gliela leggo: mi date il numero di telefono della società ETF, dettare piano, sono anziano. Grazie. Allora, noi salutiamo intanto con grande affetto questo ascoltatore. ETF non è una società, è un prodotto. Allora, Bellingeri, io la faccio salire in cattedra, dobbiamo fare un po' di ABC per gli ascoltatori che non hanno mai avuto il piacere, perché mi pare di capire che per coloro che l'hanno fatto sia andata sempre piuttosto bene, poi però ci sono anche dei rischi su questi prodotti, li spiegheremo. Però l'ETF non è una società, è proprio un prodotto. Abbiamo detto il nome in inglese, ma ecco, tecnicamente l'ETF come funziona? Ecco, in maniera molto semplice, l'ETF è un fondo comune, quindi con le caratteristiche del fondo comune, quotato in borsa, quindi con le caratteristiche anche delle azioni. È un fondo comune, quindi ha un patrimonio segregato presso una banca depositaria, quindi non presenta un rischio emittente, e come un'azione ha la possibilità di essere acquistato e venduto durante la seduta di borsa. Quindi uh-huh. diciamo che sposa le caratteristiche di positive, migliori di entrambi gli strumenti. Penso che la parola chiave in questo caso, visto anche la domanda del nostro ascoltatore, che anch'io saluto in maniera affettuosa, sia quella dell'education. Quindi c'è bisogno di educazione che è compito di noi emittenti, è compito sicuramente dei media, però allargherei anche ai regolatori, quindi mm-hmm. in questo caso a Consob, Banca d'Italia, come comunque sta già avvenendo all'estero, in particolare in Inghilterra, o comunque è avvenuto in passato negli Stati Uniti. Quindi tutti noi operatori dobbiamo fare in modo di educare, di far conoscere, di far beneficiare gli investitori privati delle caratteristiche di questi strumenti. E intanto ci proviamo almeno uno di Salvadanaio, che qualche volta raccogliamo le testimonianze di ascoltatori che fanno una grande difficoltà a leggere anche una bolletta di un telefono, che veramente è probabilmente più complicata dell'ETF e anche l'estratto conto, quindi insomma su questi argomenti è un po' più complicato che magari grandi autorità anche ci vadano, però ci si prova anche da questa sede. C'è invece un altro ascoltatore, Gian Grande, che ci scrive: gli ETF hanno delle sigle sibilline e di impervia memorizzazione, come si può fare per seguirli facilmente? Ma generalmente magari la cosa complicata è la società che li emette, sì. che è associata al nome del prodotto. Esatto. Nel nostro caso, ad esempio, non è facilissimo, perché capisco che DBX Trackers in italiano non suona benissimo. La motivazione è che chiaramente il business degli ETF è un business a livello globale, di conseguenza si decide un logo che viene poi riproposto in tutti i paesi, mm-hmm. non sempre questo logo di così di facile e di immediata percezione tra gli investitori retail. L'altra complicanza che spesso si ha nel nome degli ETF è che nel nome c'è sempre il nome dell'indice. Mm-mm. In alcuni casi gli indici sono molto conosciuti, quindi S&P 500, Dow Jones, Eurostock 50, FTSE MIB e via discorrendo. In altri casi gli indici non sono poi così tanto conosciuti dagli investitori retail. Nel nostro caso, per fare un esempio, ci sono degli indici di credito che si chiamano iTraxx, che immagino non riscontrano, diciamo così, un'immediata percezione. Infatti, intanto nel frattempo mi sono aperta il segmento della borsa italiana, che è ETF Plus, dove è possibile individuare appunto le performance di questi prodotti di investimento, ed effettivamente devo riconoscere che le sigle sono lunghissime. L'ascoltatore ha ragione. Gian Grande, allora, per quello che riguarda invece la piattaforma di Deutsche Bank, che cosa vuol dire avere una piattaforma? Significa che, per esempio, per comprare l'ETF che voi producete, che voi distribuite, devo rivolgermi a voi, non posso andare su Borsa Italiana? No, assolutamente. Per piattaforma si intende una struttura legale e organizzativa. Mm. Quindi quello che abbiamo messo in piedi sono sostanzialmente due SICAV che sono divise in multicomparto. Ogni comparto rappresenta un ETF, però l'ETF è quotato in borsa, Di conseguenza tutti gli investitori possono rivolgersi al proprio intermediario. Se l'intermediario è autorizzato alla negoziazione delle azioni su borsa italiana, è automaticamente autorizzato anche a negoziare l'ETF. Quindi, come consiglio, vi prendete nota, se vi interessa un ETF, del codice che identifica quel prodotto. Il codice si chiama codice ISIN, e andate con quel codice in banca e dite: voglio comprare questo prodotto con questo codice. Ecco, a patto che ce lo diano Bellingeri in banca, perché le banche non è che siano state molto contente di questa rivoluzione negli ultimi anni, preferiscono vendere altro, addirittura preferiscono neanche più vendere i fondi di investimento di casa propria a distribuire altri prodotti, ma questo è un tema che abbiamo affrontato in altre circostanze. Certo, se non ci fosse stata un po' questa resistenza bancaria, il mercato sarebbe potuto crescere ancora di più. Assolutamente sì, la crescita comunque è riconducibile soprattutto a investitori istituzionali. E questo è garanzia di qualità del prodotto, perché gli operatori specializzati utilizzano gli ETF. Per quanto riguarda i privati, noi pensiamo che sia sempre meglio rivolgersi a un consulente finanziario ed evitare il più possibile il fai da te, soprattutto quando ci troviamo di fronte a strumenti molto complicati. Questo a patto che il consulente in questo caso permetta all'investitore privato di beneficiare dello strumento stesso. Se vi è resistenza, ecco, il consiglio è comunque verso il sottoscrittore, l'investitore che si reca in banca, appunto, di chiedere e di pretendere l'acquisto dell'ETF. E naturalmente alzare anche un po' la voce qualora allo sportello invece del prospetto informativo dell'ETF si presentino con un altro prodotto. Ma guarda, fai questo, funziona nella stessa maniera. Vabbè, ma poi ci torniamo su questo punto. Magari cominciamo invece con i nostri ascoltatori, che come sempre hanno delle domande molto più interessanti delle mie. E allora comincio con Gianni dalla provincia di Ascoli Piceno, a cui auguro la buona giornata. Gianni, benvenuto tra di noi. Grazie anche a voi. Niente, per quanto riguarda l'ETF obbligazionario short, sì, praticamente con una risalita dei tassi di interesse, sì, dovrebbe risalire, penso. E invece perché lei ce l'ha, Gianni, ha notato una tendenza contraria? Sì, perché adesso l'ho visto, sta in discesa, diciamo. Sì. Per essere uno solo quotato in borsa italiana, sui ETF strutturati ho guardato lì e ho trovato questo obbligazionario short. Short lo conosco perché sono entrato su uno short DAX due settimane fa e è andata male. Ecco, e quindi insomma ha già avuto la sua esperienza. Gianni, allora è Mauro Giangrande, il diretto interessato al suo prodotto, ci spiegherà naturalmente anche come funziona un ETF obbligazionario short. Tra l'altro, legandoci anche invece un altro ascoltatore che chiedeva proprio se esistono degli ETF che permettono di andare short. Cosa vuol dire fare questa operazione? Allora, innanzitutto andare short vuol dire puntare al ribasso su un indice, quindi guadagnare dai ribassi dell'indice. I primi ETF che sono nati short sono ETF azionari, quindi che replicano all'inverso la performance del DAX, dell'Eurostock 50, dell'S&P MIB e via discorrendo. Ci sono poi due tipologie, a leva o senza leva. Mi limito per il momento a spiegare quelli senza leva. Sì. Senza leva vuol dire che semplicemente replicano al contrario l'indice, quindi se l'indice fa più 2 l'ETF fa meno 2, se l'indice fa meno 2 l'ETF fa più 2. Strumenti che hanno avuto un successo enorme l'anno scorso, chiaramente, visto l'andamento a ribasso pesante dei mercati azionari. Sulla scia di questo successo, noi come Deutsche Bank abbiamo deciso di emettere anche un prodotto che replicasse all'inverso un indice obbligazionario. Perché questo? Perché il prezzo delle obbligazioni scende quando il livello dei tassi di interesse sale e viceversa il prezzo delle azioni sale quando il livello dei tassi di interesse scende. Quindi chiaramente abbiamo vissuto negli ultimi mesi in particolare una condizione di mercato in cui i tassi di interesse hanno continuato a scendere. Quindi i prezzi delle obbligazioni hanno beneficiato moltissimo. Chi aveva un'esposizione nei confronti di un fondo obbligazionario sia corporate che governativo ha beneficiato di questo andamento. La domanda è: e se nel futuro, penso che era questa la domanda del nostro ascoltatore, così, se nel futuro i tassi dovessero ricominciare a salire per effetto dell'inflazione e di altri elementi, cosa che magari non avviene entro due mesi, ma probabilmente nel giro di due anni avverrà, questo ETF beneficerà di questa situazione? Assolutamente sì. Allora, prima di sentire altri ascoltatori, invece, sempre prendendo a spunto anche, come dire, la considerazione che faceva Giangrande sul fatto che abbiano ad un certo punto prodotto in casa propria un ETF che investisse appunto in maniera short sul mercato, adesso io la sintetizzo molto, stavo riflettendo un po' sui primi ETF che naturalmente erano molto semplici, Bellingeri, e poi ovviamente anche sulla scia della come dire, dell'evoluzione del mercato, di tante cose che abbiamo visto negli ultimi anni. Sono nati tanti prodotti, appunto tanti ETF che replicassero appunto tanti mercati sottostanti di riferimento. Qual è, per esempio, io non voglio dire utilizzare la parola stravagante, ma il più originale secondo lei, insomma, è magari quello che avete in casa vostra degli ultimi anni, sulla scia, ma probabilmente sulla scia del fatto che ci sono delle esigenze anche in questo senso. Certo, no, io non parlerei di ETF stravaganti, nel senso che... La parola brutta che mi è venuta. Ci sono delle esigenze diverse da parte dei diversi investitori. L'ETF è un prodotto quotato, quindi a disposizione del piccolo investitore privato e del grande investitore istituzionale, e quindi vanno soddisfatte tutte le esigenze. L'investitore istituzionale, con una conoscenza più specifica sui mercati e sugli strumenti, può acquistare anche questi ETF più complessi. L'investitore privato, se non è accompagnato da una consulenza, naturalmente è meglio che si rivolga a strumenti più semplici, quindi agli indici azionari, quelli che tutti conosciamo, che prima ha citato Mauro, o comunque anche a ETF obbligazionari, perché le ETF nascono come strumenti azionari, però negli ultimi anni abbiamo assistito a un boom di ETF anche sui bond. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina stiamo parlando di un prodotto di investimento che ha avuto una crescita enorme nel nostro paese, ma anche nel panorama internazionale. Stiamo parlando degli ETF, che sono dei fondi comuni di investimento che si possono però acquistare e vendere in borsa proprio come delle semplici azioni. Comprano in questo momento ogni segmento di mercato. All'inizio erano dei fondi che, per esempio, replicavano in maniera passiva, perché poi questa è la loro come dire, definizione, gli indici azionari. Dopodiché invece hanno coperto senza la S davanti tutti i segmenti di mercato, come vi dicevo, e adesso coprono ampiamente quasi tutte le esigenze di tutti gli investitori. Però c'è qualcuno che lamenta che ci sono degli aspetti non molto chiari. Uno di questi è sicuramente la fiscalità, un problema che non riguarda solo gli ETF ma larga parte dei prodotti di investimento. Adesso sentiremo anche tutte le vostre perplessità su questo, però volevo ritornare invece, come dire, al quadro complessivo che riguarda l'utilizzo di questo prodotto di investimento. Alessandro, dalla provincia di Treviso, vorrei utilizzare la sua domanda. Benvenuto. Sì, buongiorno, una domanda molto terra a terra. Io e mia moglie abbiamo investito una cifra per noi importante in azioni. Naturalmente non lo facciamo direttamente, ma siamo assistiti da un professionista. Sì. Lo strumento finanziario di cui state parlando potrebbe essere un'alternativa all'investimento che ho fatto io, cioè potrebbe essere anche idoneo per quelle che sono le mie aspettative, che sostanzialmente sono quelle di non perdere il valore a beneficio dei miei figli, che sono ancora piccoli. Certo, Alessandro, chiaramente poi alla base dell'investimento azionario c'è anche un po' la prospettiva temporale che si ha di fronte. Allora, Bellingeri, che non aveva sentito bene la sua domanda, lui dice: ho fatto con mia moglie questo investimento importante, seguito da un consulente, nel settore azionario. Allora lui chiedeva se questo prodotto, l'ETF di cui stiamo parlando noi, può in qualche maniera aiutare a dare un valore aggiunto al suo investimento. Adesso poi dipende anche dal periodo di tempo che ha di fronte. Lui parlava di un investimento fatto per i figli. È una bellissima domanda questa. Bellissima domanda, come sempre dipende dal profilo rischio rendimento, quindi dalla sua propensione al rischio. Se dopo un'attenta analisi la propensione al rischio permette di investire su questo tipo di strumenti, sicuramente l'ETF è lo strumento giusto, nel senso che coniuga una presa di posizione su alcuni mercati, però lo fa in maniera diversificata. Quindi non vado a investire su singole società, ad esempio appunto nel caso azionario, o su singoli paesi. Infatti, però bisognerebbe vedere che tipo di pacchetto il consulente ha proposto al nostro investitore, intanto, per fare un paragone con l'ETF, certo. Certamente. Se si tratta di fondi comuni, ecco, i due hanno caratteristiche simili, quindi ETF e fondi comuni, e quindi abbiamo la diversificazione in entrambi. Negli ETF sicuramente c'è un discorso maggiore di trasparenza, in quanto conosco il portafoglio in tempo reale a base giornaliera, E poi anche un discorso di costi. Naturalmente negli ETF i costi sono minori e quindi bisogna valutare se si vuole ricercare un investimento azionario con una sovraperformance rispetto a quella degli indici, oppure se ci si accontenta di replicare un indice che è poi l'obiettivo degli ETF. A proposito peraltro di commissioni applicate a questi prodotti, Mauro Giangrande, se vuole può anche fare un commento rispetto al caso dell'ascoltatore, che mi sembra un tema molto interessante quello che ci ha posto, e sicuramente il consulente non gli ha detto che c'era l'opportunità di investire in ETF e magari era anche un consulente bancario. Detto questo, adesso che l'ascoltatore lo sa, può tornare dal suo consulente e farsi fare magari una prospettiva di investimento anche in un prodotto che sia il più simile possibile al portafoglio che ha. Giangrande, cosa potrebbe fare? Assolutamente, infatti la domanda che bisognerebbe porgli è appunto su quali azioni eventualmente ha investito, su quante azioni, perché anche lì l'argomento della diversificazione a cui faceva prima riferimento Emanuele è molto legato a questo. Sicuramente comprando con una sola operazione in borsa, fatta comprando un ETF, io compro contemporaneamente un paniere molto diversificato di azioni, quindi una delle caratteristiche principali di questo prodotto è proprio questa. No, parlavamo invece del fatto delle commissioni con Bellingeri. Sì. So che voi naturalmente avete preso spunto dalla partenza dei saldi di Milano e avete pensato di fare qualche sconto anche ai vostri clienti, a parte gli scherzi. C'è un vostro prodotto che investe sul Dow Jones Eurostoxx, che è praticamente il principale indice esattamente europee, e su questo prodotto avete abbattuto totalmente le commissioni. Sì, come sì, mai lo questa presentiamo scelta? Tutto controcorrente in un mondo in cui tutti si fanno pagare tutto. Lo presentiamo a commissioni zero. La motivazione è molto semplice: abbiamo ottimizzato così un processo di replica dell'indice tale per cui si riesce ad ottenere un prodotto che ha delle performance migliori di quelle dell'indice stesso. Negli ultimi 2 anni e mezzo, da quando è partito l'ETF, l'ETF ha battuto l'indice in media di circa 60 basis point, quindi dello 0,60%. Di conseguenza abbiamo detto, perché non a questo punto, visto che siamo convinti di poter fare lo stesso anche negli anni successivi, perché a questo punto non abbattere direttamente le commissioni di gestione e compartecipare con gli investitori a quelle tecniche di miglioramento, diciamo così, della replica dell'indice, tale per cui si riesce in qualche modo a, da un punto di vista così commerciale, a presentare un prodotto fin da subito a commissioni zero, e da un punto di vista reale proprio avere un prodotto che replica in maniera efficiente molto. Emanuele Bellingeri, il tema delle commissioni è sicuramente molto interessante e molti risparmiatori stanno lontani dai fondi di investimento proprio perché le strutture commissionali non sono molto trasparenti. Come fa un ETF ad abbatterle quasi del tutto, come nel caso di Deutsche Bank? Adesso chiaramente non le chiedo un commento rispetto alla politica commerciale dell'azienda concorrente, però il tema è proprio questo. È chiaro che è un prodotto che ha una gestione completamente passiva, non c'è nessuno che deve scegliere i titoli, le società da mettere dentro nel paniere, però in qualche maniera dovete essere remunerati per la vostra attività. Come si fa a mantenere delle quotazioni così basse in termini di commissioni? Sì, la risposta l'ha già data comunque in gran parte. Un altro aspetto che vorrei evidenziare è quello della mancanza della remunerazione per la distribuzione. E quindi in questo caso non c'è una commissione di distribuzione, ci sono dei costi di gestione molto bassi perché non c'è bisogno di un gestore che attivamente sceglie i titoli da inserire in portafoglio, quindi si riesce a mantenere il pricing molto molto contenuto. A me piace un termine che usano negli Stati Uniti, dicono che l'ETF è un prodotto democratico, democratico perché è uno dei pochissimi strumenti presenti sul mercato che presentano lo stesso livello di costi, sia se l'acquirente è un investitore privato che acquista 100 euro di un ETF, sia un investitore istituzionale che compra centinaia di milioni. Questo è comunque molto interessante. La vostra politica commissionale qual è? È possibile avere, adesso non le posso chiedere ovviamente il prezzo, una commissione pagata per ogni singolo ETF, però magari anche per avere un quadro di riferimento che un sottoscrittore deve aspettarsi rivolgendosi alle società che operano in questo segmento. Ci sono dei range di riferimento? Per esempio, investendo in un ETF che vuole replicare il mercato azionario italiano, quant'è ragionevole pagare? È ragionevole pagare sugli azionari italiani, europei e anche Stati Uniti un TER, quindi un total expense ratio, che non comprende solo le commissioni di gestione ma le commissioni totali, dai 20 basis point, quindi 15 basis point, ai 50, quindi cioè sarebbe 1,5% rispetto su no, 0,15 a 0,50 di commissioni totali. Naturalmente se si vuole investire sui paesi emergenti dove la replica del portafoglio comunque più costoso proprio anche da parte dell'emittente si sale fino a 75 basis point, quindi si rimane comunque ampiamente sotto l'1%. E poi ci pensa la banca a vanificare tutto questo risparmio, perché ci scrive Laura da Bergamo: compro ETF con internet banking e la banca mi carica 30 euro per operazione. E anche questo, insomma, mi guardano un po' allibiti i miei ospiti, però io ovviamente prendo atto di quello che Laura ci racconta, probabilmente le capita anche questo. Nicola da Roma, buongiorno, quali sono le sue perplessità su questo prodotto di investimento? Perché non vorremmo ovviamente dipingere un quadro tutto a rose e fiori, insomma qualcosa che non funziona dovremmo pur trovarlo. Poi Giangrande e Bellingeri non vengono più a trovarmi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto grazie di esistere, perché anche non solo a livello economico ma anche a livello musicale, perché c'è quella trasmissione dei Magnifici che mi piace molto. Ah, benissimo, allora giriamo i suoi complimenti agli autori del programma, grazie Nicola. A prescindere da questo, una mia paura è questa: praticamente gli ETF sono partiti come prodotti molto semplici, mi ricollego a quello che ha detto prima il signore di prima. Sì. Poi adesso c'è un'elaborazione di questi prodotti e non vorrei che questa cosa facilitasse la speculazione, come è successo già in America, per cui alcune scommesse al contrario, quindi io guadagno se la borsa scende, hanno comportato anche dei movimenti non indifferenti sulla borsa stessa, o anche negli ETC, nel petrolio, sì, infatti, sull'oro. Nell'oro. Quindi io non vorrei che, come dice Warren Buffett, ci troviamo poi di fronte a un'ennesima arma di distruzione di massa, come lo chiama lui. Un po' come le cartolarizzazioni, Nicola, dice lei, no? È partito, sì, insomma, con tutto il vantaggio di distribuire il rischio sul mercato e poi ci siamo trovati che queste cartolarizzazioni, si sapeva più dove fossero andate a finire, avevano creato sul mercato una montagna di carta che poi ovviamente è esplosa. Sì, Nicola, lascio concludere. Per concludere, praticamente, essendo un prodotto che hanno soprattutto in mano gli istituzionali, questa cosa è positiva da un lato, ma dall'altra parte poi ci presenta dei rischi proprio a livello speculativo. Tutto qui. Grazie Nicola. Mauro Giangrande. Sì, io vorrei dire chiaramente che gli istituzionali non hanno solo a disposizione gli ETF per fare certi tipi di, tra virgolette, speculazioni o per prendere posizioni a ribasso, ad esempio. Gli istituzionali possono avere accesso facilmente a prodotti derivati, ad esempio, che sono negoziati over the counter, tipo gli swap e altre cose similari. Questo per dire che non è che eliminando gli ETF, tra virgolette, si elimina il problema. Se c'è un problema, anzi io credo che gli ETF diano, si parlava prima di prodotto democratico, diano la possibilità anche agli investitori retail che fino ad oggi non potevano fare questo genere di operazioni, perché andare short, quindi scommettere sui ribassi delle azioni, chiaramente non è un'operazione facile da mettere in piedi per un investitore retail. Oggi con gli ETF lo può fare in maniera semplice, trasparente, poco costosa e anche investendo solo 100 euro. Certo, poi quello che io dico magari sarà molto banale la mia considerazione, ma se c'è la percezione che ad un certo punto un prodotto di investimento comincia a diventare non chiaro, perché diventa troppo articolato, perché i prodotti sottostanti sono i più differenti, si può sempre star lontani, si può sempre scegliere qualcos'altro e scegliere il prodotto di investimento più semplice, che è quello che si comprende. Allora, prima di sentire Alberto e Bruno, che sono tanto pazienti e aspetteranno anche qualche altro secondo, voglio farvi una domanda che probabilmente tutte le volte che ho fatto trasmissioni sugli ETF ho fatto a tutti i miei interlocutori, però la voglio ribadire, perché così è una cosa che non mi è ben chiaro, forse non mi ricordo le risposte. Emanuele Bellingeri: ammettendo di aver sentito questa trasmissione, io sono interessata adesso ad investire su questo prodotto, scelgo il più semplice, l'ETF che punta su Piazza Affari, quindi vuole replicare il FTSE MIB, il nostro principale paniere, il nostro principale indice. iShares avrà il prodotto in casa sua, ce l'avrà Deutsche Bank, ce l'avrà Lyxor, saranno dei prodotti identici. Perché devo scegliere il vostro piuttosto che quello di un'altra azienda? Visto che hanno la stessa caratteristica, lo stesso modo di replicare l'indice di riferimento, qual è la differenza tra un prodotto vostro e quello di un'altra società? Sì, gli ETF, appunto, se vengono gestiti bene, sono molto simili, nel senso che comunque... Ma non sono gestiti, non sono passivi? Sì, sono costruiti bene, ecco, sono abbastanza simili, perché comunque hanno come obiettivo quello di replica di un indice, quindi più vicino sono all'indice e più vuol dire che questi prodotti sono costruiti bene. posso considerare il prezzo, quindi il costo, posso considerare la liquidità, quindi andare a vedere sul book, quindi in borsa tramite il mio intermediario quanto sono scambiati, e poi anche la affidabilità dell'emittente. Abbiamo parlato comunque di tutti emittenti molto affidabili, sappiamo che comunque a livello mondiale ci sono circa 90 emittenti, comunque il mercato è molto concentrato, quindi sicuramente quando parliamo dei principali possiamo stare tranquilli. Non è così magari, però insomma diciamo che fondamentalmente la differenza la possono fare le commissioni applicate appunto per la loro compravendita e la liquidabilità, cioè il fatto di poterlo vendere e comprare in tempi abbastanza rapidi. Giancarlo, sì, assolutamente. Gli ETF hanno una commissione esplicita che è la commissione di gestione, o meglio il TER, il Total Expense Ratio, perché la commissione di gestione, poi ci sono altre commissioni amministrative da considerare. In più, quando io vado ad operare sul mercato di borsa, io quando vendo applico un prezzo che si chiama bid sul mercato, quando compro applico un prezzo che si chiama offer sul mercato. La distanza tra il bid e l'offer, che in gergo tecnico si chiama spread, rappresenta un ulteriore costo implicito che l'investitore sostiene quando compra un ETF. Quindi un confronto, ad esempio, tra vari emittenti può essere fatto guardando quello che lo spread in quel momento sul mercato. Magari consiglio anche di monitorarlo per un po', perché chiaramente un solo sguardo non è sufficiente, perché se compro un prodotto che ha in quel momento uno spread, o generalmente uno spread più basso sul mercato rispetto a quello dei competitor, in generale sto limitando i costi impliciti. E qui insomma abbiamo scoperto un altro aspetto che ci rende abbastanza complicato, se vogliamo, l'esame di questi prodotti, però insomma sappiate che c'è da considerare anche questi parametri. Alberto dalla provincia di Perugia aspetta da un po', io voglio sentire molto volentieri la sua domanda perché ci permette di introdurre il tema della fiscalità e figuriamoci se potevamo farcela mancare oggi. Alberto, benvenuto tra di noi. Buongiorno, mi sentite? La sentiamo benissimo. Allora, dunque, io da tempo ho scoperto tutti gli ETF e investo in iShares, in DBT e in Lyxor, cioè le tre case, diciamo così. Benissimo. Il problema è questo, ho scoperto, dunque io conosco benissimo tutti i pregi e non ho nessuna critica da fare alle aziende che gestiscono ETF. Il problema, come diceva lei, è la fiscalità. E io ho scoperto duramente questa cosa quando ho dovuto disinvestire in febbraio-marzo perché ho bisogno di liquidi e quindi ho avuto delle minusvalenze dato che il mercato era in crisi, ovviamente, tutti sanno. Dopodiché alla prima segnale di ripresa del mercato ho ricomprato alcune cose, ho rivenduto, ho fatto un po' di mordi e fuggi e con grande sorpresa mi sono visto tassare le plusvalenze pur avendo avuto certe volte addirittura sullo stesso titolo delle minusvalenze molto più grandi. Quindi è l'unico operatore di banca che mi ha saputo rispondere, dice sì, ma gli ETF sono trattati così. La cosa per inciso non vale sugli ETC, cioè sulle commodities, ma sugli ETF è universale. Questa è una faccenda che dovrebbe interessare tutti. Io ho scritto anche a un giornale finanziario e non ho avuto poi sostanzialmente seguito. E che non era il nostro, Alberto? Come no, scriva Marco Liera al Sole 24 Ore, vedrà che prima o poi trova il sistema per darle una risposta. Mi può ridare il nome che l'ho perduto? A presente quando noi facciamo il sabato la puntata con la collaborazione dei colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore, è l'inserto del sabato del risparmio. Marco Liera è responsabile di questo inserto e le assicuro che legge tutto, se trova degli spunti interessanti fa una bella pagina, quindi questo glielo posso suggerire, poi magari non riesce a farlo nel giro di pochissimo tempo, però ci va. Ma sono sicura che tra l'altro avranno anche affrontato l'argomento. Alberto, giro la sua considerazione ai nostri ospiti. Allora, Bellingeri, non è possibile compensare plusvalenze e minusvalenze con gli ETF? Non è possibile compensare perché la struttura giuridica dell'ETF, come dicevamo prima, è quella di un fondo comune, quindi quello di una SICAV e non di un'azione. Nel caso degli ETC invece è possibile perché non si tratta di un fondo comune ma di una nota, comunque di un certificato. È un peccato, però li renderebbe veramente perfetti anche questa possibilità di compensare. Ma è un peccato e noi emittenti faremo in modo, cercheremo comunque di parlare con le autorità e per far sì che anche... Quindi è un problema ben presente anche a voi? Assolutamente sì, tutto ciò che va a beneficio dell'investitore a noi è gradito e quindi parleremo con le autorità competenti per risolvere anche questo discorso. La lobby degli ETF abbiamo creata stamattina qua a Salvadanaio. Franco da Siena, ecco qua un'altra bella domanda, benvenuto tra di noi. Sì, buongiorno. Ci dica. Ecco, no, volevo sapere per capire l'ETF, la specializzazione di quel tipo di ETF, perché se si va su internet o nei giornali ci sono delle sigle, ma non si capisce bene per capire quello della materia prima. Sì. Ecco, qual è un punto di riferimento su internet per poterli trovare? E poi una domanda veloce. In un periodo borsistico di alta volatilità come sì. ora, comprare un ETF su un indice, sia che normale che short, e poi mediare nei movimenti del più 5 e meno 5%, è considerabile? Franco, chissà se mi si sbilanciano gli ospiti su questa seconda parte della sua domanda. Allora, però andiamo per ordine. Io partirei con Mauro Giangrande, solo perché in Borsa Italiana qualche anno fa ha fatto un grande lavoro per documentare al meglio tutti i nostri risparmiatori su dove è possibile trovare anche le informazioni sugli ETF. Sicuramente possiamo partire dal sito della Borsa Italiana. Sì, sicuramente sul sito di Borsa Italiana c'è una sezione proprio dedicata interamente agli ETF, in cui gli ETF sono classificati per tipologia, quindi azionario Europa, azionario mondo, piuttosto che obbligazionari, titoli di Stato. E quindi lì si può scoprire che magari dietro a un nome lungo 12 km c'è un prodotto semplice. Esatto, riesco a capire su che cosa investe l'ETF. In realtà poi ci sono tantissimi altri siti specializzati che invito gli investitori a consultare. Peraltro ciascun emittente, quindi noi di Big Tracker, iShares, Lixor, ciascuno ha il suo sito internet, quindi per cercare ulteriori informazioni potete anche su uno specifico, per una volta individuato uno specifico prodotto potete entrare anche andare sul sito quindi e trovare appunto tutte le informazioni del prodotto prescelto. Volevo aggiungere qualcosa, Bellingeri? Sì, sì, no, riguardo la seconda domanda abbiamo parlato appunto di volatilità. È uno dei tanti, delle tante caratteristiche positive dell'ETF è quella appunto di essere scambiato in borsa, quindi di poterlo acquistare e vendere velocemente anche a livello giornaliero sulla borsa, e quindi come dimostra l'aumento dei volumi proprio di questi ultimi mesi, quindi con un aumento di volatilità c'è stato anche un aumento dei volumi, posso prendere le mie esposizioni o al rialzo o al ribasso in maniera molto flessibile. Qual è in questo momento, per esempio, Bellingeri, in casa vostra il prodotto che ha il maggior successo in termini di sottoscrizioni o scambi? Tanto per capire anche da questo qual è la tendenza generale del mercato, se da una tendenza di sottoscrizione di un ETF si può capire in anticipo anche il mercato dove sta andando in termini generali. Sì, da qualche mese il prodotto di più successo, di maggior successo, è sicuramente quello sui corporate bond. Ah, obbligazioni societarie. Obbligazioni societarie, dove è un mercato molto interessante, però c'è ancora il timore da parte dell'investitore nell'andare a selezionare una singola azienda, una singola emissione, quindi tramite gli ETF lo si fa in maniera diversificata. Esatto, e quindi sicuramente sono dei volumi e degli asset in crescita. Giangrande, invece sulla vostra piattaforma? Ma io dividerei due aspetti dei volumi da quello della raccolta. Nel senso che non è detto che se un ETF scambia molto in borsa non è detto che raccolga tanto e per quanto ci riguarda chiaramente come emittenti guardiamo invece molto alla raccolta più che agli scambi, quindi per quanto riguarda gli scambi i nostri ETF ad esempio short continuano ad essere chiaramente molto, molto scambiati vista anche la situazione di mercato molto, molto volatile, un po' meno per fortuna di qualche mese fa, però sì, devo dire che vengono utilizzati anche come diciamo per strategie un po' più sofisticate, potrebbe essere anche strategie di copertura piuttosto che strategie di long short, ma non voglio entrare troppo nel tecnico. A livello di raccolta devo dire che stiamo avendo grossissimi risultati negli ETF al di fuori del mondo azionario, tra virgolette, quindi stanno andando molto bene gli ETF che replicano indici governativi, di obbligazioni governative, gli ETF appunto che guardano i corporate, quindi gli ETF su crediti, e anche gli ETF su commodity, quindi diciamo sono questi gli ambiti in cui stiamo vedendo una grossa raccolta. Io non riesco a sentire Bruno da Bergamo che voleva sapere come si fa a sapere l'esatta composizione di un ETF, basta guardare Bellingeri in 10 secondi, sottostante. Semplicissimo, prodotto sottostante, comunque ad esempio sul nostro sito a livello giornaliero c'è la composizione con tutti i titoli in portafoglio con la relativa percentuale, quindi anche super trasparente. No, invece Franco da Massa voleva consigliare l'utilizzo dell'ETF per piani di accumulo e anche speculazione, questa non riusciamo a sentirla, magari mi mantengo sul PAC, anche questa è un'indicazione che abbiamo dato altre volte. Ma sì, assolutamente, l'ETF si presta benissimo alla costruzione di piani di accumulo del tempo, cioè vuol dire che sostanzialmente io faccio piccoli acquisti mensili ripetuti nel tempo, posso aderire o a servizi preconfezionati diciamo proposti dai principali ad esempio banche online piuttosto che da me ogni ogni, il primo giorno del mese mi ricordo che devo fare determinati acquisti e dedico, diciamo così, 100 euro, 200 euro al mese all'acquisto di 2-3 ETF, perché la cosa bella degli ETF è che hanno una soglia di entrata bassissima, quindi se anche ho 500 euro al mese da investire posso farlo anche su tranquillamente 3-4 prodotti diversi. In realtà era Franco da Massa, non Fernando, speriamo, non avendolo potuto sentire, di avergli dato delle indicazioni che a lui interessavano. Peraltro anche l'aspetto del pack è interessante, perché qualora nessuno conoscesse questo prodotto e stamattina si fosse così, avesse solo citata, avesse stuzzicato la sua attenzione, avessimo stuzzicato la sua attenzione, si può sempre cominciare con una cifra contenuta per capirne bene la dinamica, il funzionamento della fiscalità e quindi tutte le caratteristiche che abbiamo spiegato quest'oggi. Poi se vedete che funziona e fa il caso vostro, potete sicuramente incrementare anche la vostra posizione. Grazie ad Emanuele Bellingeri, spero che torni a trovarci. Assolutamente, grazie a voi. Responsabile per il mercato italiano di iShares, Mauro Giangrande, responsabile Deutsche Bank X Markets, responsabile della piattaforma di ETF di Deutsche Bank per l'Italia. Ho detto grazie tutto? A voi, perfetto. Al nome più lungo del suo ETF praticamente. Buona giornata, grazie a tutti, buon fine settimana. Salva Danaio torna lunedì, buon fine settimana ancora, presto.